yo viene lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Nel 66 Pietro Germi vinse il Grand Prix per il miglior film al 19° Festival di Cannes per un film che implacabilmente mostrava l'aspetto segreto della provincia italiana. Ma cosa dica? Ma niente, niente. Ma come niente? Ma mi l'ho capito. Dica una faccia, andiamo a una festa, sa, mica un funerale. Giacinto. Sì? Oltre che all'amico, al medico che mi rivolgo. Ah, certo, caro, dimmi. Giacinto. Dai, parlano. Non son più un uomo. E da quando? Mi ricordo neanche più. Un anno, 8, 9 mesi, non so. Ma perché non ti sei venuto prima? Comunque non farò. Gasperini, cittadino benestante di Treviso, si immagina anche se Treviso è stata mai nominata nel film, confessa al suo medico curante di essere diventato impotente. Una notizia riservata, qualcosa che attiene alla propria sfera privata, sessuale, relazionale. Lo dice al suo medico e al suo amico, quindi immagina che la notizia possa rimanere nello stretto circolo della confidenza fra due amici, ma si sbaglia. Gasparini! Ah. Il piano regolatore. C'è chi piange e c'è chi ride. Il piano regolatore. Chi è che piange? Gasparini. Tony Gasparini. E perché? Affari, interessi. Segreto professionale. Ecco, Monte Sanchez. Ma se ho ben capito se tratta di malattie, eh? Acqua, acqua. Roba di donne allora. Focherello. Impotenza. Io non ti ho detto niente. Ti la garita è fatta tutta per conto tuo. Sai, sei impotente. Ti dicevo che qua. Poco dopo il medico va a una festa dove è rappresentata tutta la città che conta e naturalmente dice a tutti che Gasparini è impotente. Tanto che viene affidata in maniera magnanima a Gasparini l'incarico di accompagnare a casa la moglie di uno dei presenti a questa festa. Ma in realtà il buon Gasparini, perfetto conoscitore dei meccanismi e delle debolezze della provincia italiana, del nostro paese, sa che mettere in giro un rumor, cioè una notizia legata agli aspetti personali e intimi, significa mettere in circolo un qualcosa che ha subito il sentore di certezza. Quindi accompagna a casa la signora, ma naturalmente impotente non era, era soltanto un espediente, una maniera per dare tranquillità da un profondo conoscitore dei meccanismi del malessere relazionale della nostra città. Vengo subito al sodo, il buon Gasparini lo ricordiamo tutti come un vero e proprio satiro. Orbene, come se mai possibile che da un momento all'altro un uomo validissimo a Padova, per esempio. E a Padova non l'ha mica fatto cilecca. Mi ricordo benissimo che una delle due ragazze dell'albergo, una certa Zoraide, non so se lei la conosce. Qui no. Una delle due ragazze di Padova dove con Gasparini abbiamo passato insieme la serata. Insomma, questa Zoraide a mattina dopo mi diceva: ma come sei esuberante, ma come sei focoso il tuo amico. E tutto questo appena 10 giorni fa. 10 giorni fa? Oh, sì. Gasparini voleva dire 10 mesi. E 10 giorni fa a Padova. Cosa? No, guardate come corsi e ricorsi storici, come il rumor di paese, la piccola maldicenza che attraversa trasversalmente tutte le classi sociali, poi diventa, crescendo, salendo negli anni, arrivando ai giorni nostri, materia succosa di trattazione giornalistica. Il Gasparini venne detto da un amico di Orgia o di Festino, allora non si chiamavano escort, ma si chiamavano signorine compiacenti, a Padova, città benedetta, santa, cresciuta all'ombra di Sant'Antonio, però profondamente viziosa, almeno nella lettura di Pietro Germi e nel suo intimo. Il buon Gasparini ha mostrato orgoglio virile a bizzeffe in una sorta di rituale copulatorio pubblico assieme ai suoi amici. Quindi il rumor era stato messo ad arte in giro da Gasparini, che sa esattamente quanto può pesare una maldicenza, quanto può essere importante una confidenza legata alla sfera sessuale relazionale. Sono passati decenni da quel 1966, siamo arrivati a questa mattina. Questa mattina una notizia flash che sta facendo arroventare tutti i telegiornali, tutti i contenitori mattutini, tutti gli spettacoli i programmi di intrattenimento leggero, tutta la televisione familiare, è il fatto che Brenda, la trans brasiliana, che lateralmente, ma nemmeno tanto lateralmente, era entrata nella grande storia, nel grande rumor che ha attraversato la società italiana nelle ultime settimane, che la storia delle frequentazioni eccelse dei signori e signore con i transessuali, nuovo genere di trasgressione emersa improvvisamente alle cronache, quindi darebbe adito a un nuovo film di Piero Germi, è stata trovata carbonizzata nel suo letto. Notizia tragica, che sembra quasi la trama di un film giallo, che però è attualità, è concreta realtà. Io questa mattina avevo chiamato per parlare dei rumor in maniera molto più leggera e molto più soave una mia cara amica che è Marianna Aprile. Marianna Aprile, buongiorno. Buongiorno. Marianna Aprile è una giornalista di Novella 2000, esperta appunto nel trasformare il rumor in materia palpitante giornalistica, ma Marianna Aprile è anche l'unica giornalista italiana che dopo giorni di paziente appostamento, di importante avvicinamento, di fiducioso rapporto, ha intervistato Nathalie, l'altro vero personaggio di questa vicenda di signore e signori contemporanei. Quindi Marianna Aprile la prendo a caldo, assieme abbiamo sentito la notizia dell'autocombustione di Brenda e assieme a lei comincio a costruire questa trasmissione che doveva essere basata sul rumor, sulla maldicenza, sul meccanismo della maldicenza, sulla capacità di creare maldicenza e di arginare maldicenza, ma probabilmente prenderà una piega diversa. 800 24 0024, cominciate ad ascoltare e a contribuire. Marianna. Diciamo l'evento di stamattina ci porta a parlare di questo caso che forse avremmo trattato ugualmente, perché è uno di quei casi in cui quei casi emblematici in cui il verbale giudiziario e la chiacchiera assumono pari dignità in qualche modo, cioè in queste settimane del caso Marrazzo la chiacchiera delle trans di Via Due Ponti, Via Gradoli e i verbali, gli stralci di verbali giudiziari che uscivano dalla procura si sono intrecciati e sui giornali hanno avuto praticamente lo stesso peso, quindi in questo senso la vicenda si presta a una riflessione. Io sui rumor dire, e sulle chiacchiere. Nei rumor, invece assorbiti dalla Roma salottiera, dalla Roma del retrobottega delle redazioni giornalistiche, dalla Roma delle chiacchiere tra colleghi, è esattamente la stessa cosa. Chi c'è, chi non c'è, è saputo anche quello, sta nella storia di trans, di quello ci sono le foto, quell'altro ci ha visto legato, quell'altro ha telefonato, ha pagato perché non fosse nominato. Quindi siamo esattamente nella stessa situazione. Esatto, e soprattutto la chiacchiera è rimasta una delle poche cose davvero democratiche del nostro modo di operare, una cosa trasversale, cioè chiacchierano tra loro dei clienti potenti le trans di Via Due Ponti, chiacchierano dei clienti potenti delle trans di Via Due Ponti i salotti buoni, le redazioni. Di nomi se ne sono sentiti veramente tanti. A un certo punto si faceva prima a dire chi non sarebbe stato coinvolto da questo ciclone. In realtà dalla sera alla mattina i nomi non sono più circolati, gli identikit si sono fatti sempre più vaghi e degli altri clienti eccellenti, come giusto che sia poi alla fine, perché al di là della ragione sociale del mio giornale e della prurigine che in tutti noi scatenano questi argomenti e queste debolezze dei potenti, in realtà se queste frequentazioni non sono, come dire, al centro di reati veri, presunti, supposti o indagati, è giusto che i nomi non escano. È piacevole l'esercizio di stile nel riconoscere. Mi ricordo, per dire come il sistema di riferimento dei rumors è un sistema che a volte è fatto di specchi contrapposti, di averti intravisto una volta di sfuggita in una puntata di Porta a Porta, in cui la giornalista di Porta a Porta cercava di forzare la porta dell'uscio di Nathalie e all'interno su un divanetto c'era Marianna Aprile che intervistava Nathalie. Sì, con tanto di bollino sul viso. No, in realtà quell'irruzione, la seconda irruzione a casa di Nathalie a opera della sicaria di Bruno Vespa arrivò al termine di un weekend di simbiosi con Nathalie nel quale appunto raccolsi, era un paio di settimane fa, ho raccolto questo suo memoriale che ha toccato non solo gli aspetti più squisitamente giudiziari, quindi abbiamo ricostruito, come dire, i movimenti, gli orari, l'irruzione, la visita che tanto scalpore ha fatto di Nathalie a Marrazzo dopo l'irruzione per discutere come con la complicità che è emersa dalle parole di Nathalie di quello che era appena accaduto, il significato che aveva o che avrebbe potuto avere nella vita di entrambi. Quella visita di Porta a Porta arriva appunto alla fine di questo weekend in cui lei racconta, ha raccontato questo rapporto di amicizia, cioè in realtà all'inizio ci avrebbe anche fatto molto gioco parlare dell'amore segreto di una storia alla Germi in cui ci si vanta delle prestazioni, esatto, iperboliche. In realtà era un rapporto che almeno, cioè, se dobbiamo prendere per buona la nostra fonte, che in questo caso è Nathalie, era un rapporto di profonda complicità, di profonda amicizia, ecco, e di rispetto, cioè si confidavano l'un con l'altro, parlavano delle proprie... Tu avendo avuto un'esperienza personale di frequentazione professionale con questo mondo delle trans romane, che è così centrale in questo rumor contemporaneo, hai notato una differenza di tenuta del pettegolezzo della notizia pruriginosa da parte delle dirette protagoniste di queste signore, ex signori, signore e signori, vedi che torno al termine, che sono diventate il ricettacolo delle passioni, delle pulsioni, delle esplosioni ormonali, delle confidenze di tanti uomini illustri, e invece delle altre persone che intorno a questo facevano la panna montata? Allora, va detto che per stessa ammissione di Nathalie e di altre trans interpellate, le trans sono le regine delle chiacchiere, cioè per stessa ammissione loro. Allora, piace come dire, montare la panna sui singoli casi. Detto questo, ci sono state delle differenze nella gestione del pettegolezzo e della cronaca da parte delle protagoniste di questa storia. Nathalie si è mossa nelle sue ammissioni, nelle sue confessioni, seguendo di pari passo le decisioni della procura nell'uscita dei verbali. Mi ricordo perfettamente che nella nostra conversazione di sabato lei ha omesso volutamente delle cose, ma domenica mattina, guardando i giornali, ha capito che poteva parlare anche di altre cose e le ha riferite. Di contro c'è stato tutto un sottobosco di transessuali di Via Due Ponti, Via Salaria, Via Flaminia, che improvvisamente avevano storie incredibili da raccontare, inverificabili. Del racconto di Nathalie ci sono diversi riscontri, ci anche negli atti reali giudiziari, dei racconti delle ragazze di... Posa quel braccialetto e fai rumore. In altri racconti ci sono meno riscontri. Detto questo, la tenuta del pettegolezzo in questo caso ha dimostrato, come dire, un aggancio prevalentemente giudiziario, ecco, adesso, cioè si è spento, cioè, quando si è smesso di parlare dell'inchiesta. Adesso dell'inchiesta si riparlerà molto. Adesso hai modo di darmi, se vuoi, qualche idea di cosa potrebbe dire Nathalie oggi alla notizia della sua collega bruciata? Ovviamente, cioè, per Nathalie parla Nathalie, ma se io fossi in lei sarei quantomeno inquietata da questo decesso che... allo stato attuale delle informazioni del nostro possesso è un decesso assolutamente accidentale, così come allo stato delle nostre informazioni fu naturale la morte dell'altro personaggio invischiato in questa faccenda, il pusher Gianguarino Cafasso, che secondo i carabinieri inquisiti sarebbe stato il primo depositario di questo famoso video del presunto ricatto a Marrazzo. Vero è che morte naturale una, morte accidentale l'altra, sono comunque due decessi di personaggi chiave di questa vicenda. In una delle descrizioni del famoso video del presunto ricatto pare ci fosse proprio Brenda, e la stessa Brenda, a proposito di chiacchiere, nei mesi scorsi era stata ascoltata da più colleghe dire in giro che aveva un video da vendere, che avrebbe fatto i soldi, che sarebbe andata via, come è andata via la sua coinquilina Michelle, anche lei entrata nell'inchiesta per un incontro, almeno due in realtà, con l'ex governatore. Quindi abbiamo dato questa mattina già un'ulteriore materia per l'accrescere e il divulgarsi dei rumors attorno alle vicende, dei rapporti notturni, le scorribande notturne di alcuni personaggi importanti della scena politica, della scena economica e dell'informazione. Abbiamo al telefono il professor Enrico Pozzi. Professore, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo dilungato, data la necessità di cronaca, ma lei è un profondo esperto della materia rumors, tanto che diventa un'attività vera e propria che permette anche di usare in maniera positiva questa possibilità di mettere in giro notizie, far crescere conoscere notizie, usare il passaparola. Ce la spieghi in sintesi? Ma guardi, in sintesi forse è difficile, però ci proviamo. Diciamo che quello di cui parla la collega giornalista che mi precedeva è la chiacchiera nel caso specifico sono chiacchiere che riguardano i potenti, però quello che vorrei semplicemente sottolineare è che di chiacchiera, o per meglio dire di conversazione, è fatto il 99,99% della nostra comunicazione quotidiana. La chiacchiera siamo noi, la chiacchiera tesse la nostra vita sociale, la pervade completamente. Io mi ci mantengo da 25-30 anni, mantengo anche moglie e figli. Buon per lei. Ci si mantiene, ritengo, anche con divertimento, perché poi una componente fondamentale... Si è molto appagante la chiacchiera, devo dire. Esattamente. E così lo è anche la conversazione. Allora, noi viviamo in realtà in sistemi sociali nei quali la conversazione è il canale della comunicazione sociale. Ripeto, praticamente tutto ciò che noi sappiamo, sentiamo, diciamo, eccetera, si inserisce in questa matrice, in questo flusso dinamico inarrestabile, pervasivo, quasi gassoso di conversazioni che ci avvolge completamente. Ma infatti le nostre fonti nascono comunque da persone che parlano in ogni maniera, poi sta a noi verificare quanto affondino in qualcosa che assomigli a una realtà, perlomeno nella nostra oggettiva percezione del reale, e trasformarle poi in un racconto. Questo da un lato. Dall'altro però tenga presente che il problema della conversazione sociale è che per il fatto stesso di avere dei contenuti li rende veri. Cioè, quando nel 1981, tanto per fare un esempio, la Procter & Gamble fu investita da una violenta accusa di satanismo... Sì, per il logo della Procter. Esattamente, per cui nelle stelle si leggeva il 666 satanico, eccetera. Che cosa c'era di vero in quello? La veridicità, però, stava nel fatto che molti lo dicessero e che lo dicessero in una forma faccia a faccia. Io lo dico a te, che lo dice a lui, che lo dice a un altro. Ecco, eccetera. Come diventa uno strumento di marketing positivo o negativo? In questo caso di criminale tentativo di assassinare un'azienda, poi fa parte delle lecite maniere di farsi concorrenza. Ma dunque, così do modo di raccontarci cos'è la sua associazione, come funziona? Allora, sì, l'associazione che stiamo creando è un'associazione di professionisti e di ricercatori anche che lavorano sui rumors. Lavorano sui rumors per capire come funzionano, come si diffondono, come in qualche modo possono essere controllati, diretti. I cattivi direbbero manipolati, ma io non sottoscrivo questo. E come? Diciamo indirizzati e incanalati. Indirizzati e incanalati, lei è gentile, forse leggermente eufemistico, ma va bene così. Indirizzati e incanalati verso degli obiettivi specifici. Gli obiettivi specifici possono essere naturalmente relativi a un brand, relativi a un prodotto, relativi a una identità aziendale, ma possono anche essere campagne sociali, per esempio campagne di passaparola intorno al fumo o intorno a obiettivi di tipo verde, ecologico, eccetera, come ne sono state fatte recentemente. Ma come funziona? Ci sono degli esperti tipo Marianna Aprile, cominciano ad andare per strada a dire: ma sai, ho visto quello che ha una brutta cera perché fuma tanto, faccio un esempio così inventato banalmente. Questo non funziona mai, perché nessuno smette di fumare perché vede davanti qualcuno che ha una brutta cera, assolutamente. Ma facciamo un altro esempio per capire bene allora, come funziona, come diventa uno strumento reale di marketing. Uno strumento reale di marketing potrebbe essere, per esempio, che io ho un prodotto, io do questo prodotto a qualche migliaio di persone, questo qualche migliaio di persone lo testa, lo prova, lo usa e provandolo e usandolo pensa delle cose. Queste cose che pensa, dato che questo migliaio di persone, se è onesto, non è pagato, non riceve nessuna ricompensa per quello che fa, ma è per così dire un esperto volontario, uno di quelli che temibilmente pensa su certi argomenti di poter dire cose profonde, interessanti, perché lui ne sa più degli altri, questo qui poi ne parlerà in giro, perché ha una sua rete di rapporti, faccia a faccia, ne parlerà a destra, a sinistra, eccetera, e magari totalizzerà 10, 20, 30 contatti, e in qualche modo, attraverso questa catena di Sant'Antonio, impressionante per viralità e per rapidità, ciò che questo gruppo di persone implicato in questa campagna pensa di quel prodotto si diffonderà. Ecco, Marianna Aprile deve farle una domanda, sì, professor Pozzi. Sì. No, mi chiedevo, ho notato che ultimamente una serie di notizie di gossip molto, come dire, molto d'impatto, penso alle nozze vere e presunte di George Clooney e Elisabetta Canalis, allo sciopero del sesso di Victoria Beckham. Che è il tuo pane, Marianna. Assolutamente, pane e Nutella. sono uscite sempre in associazione con un noto prodotto, con nome di una nota compagnia di navigazione, che si ovviamente commentava entusiasticamente le notizie e assolutamente negava di essere nella fonte. Sono questi meccanismi di cui parla, cioè il fatto di usare il gossip, ormai unanimemente conclamato canale di comunicazione preferenziale per tutto, dalla politica allo spettacolo, per veicolare l'immagine di un brand, associare un brand appunto a celebrities. Ecco un esempio coerente questo. Allora, credo semplicemente che lei lo chiama gossip, io lo chiamerei rumor, voce, eccetera, che in tutta una serie di situazioni di marketing un brand o un prodotto si diffonde se c'è una storia, occorre una storia, e la storia deve funzionare. E quale storia funziona meglio di qualcosa che permette l'identificazione alle persone che quella storia la sentono, la raccontano e dunque la rimbalzano spontaneamente in un modo epidemico nel sistema sociale? 800240024, quanto una maldicenza, un rumor, una storia, qualcosa di non verificato potrebbe portare vantaggi o potrebbe demolire la vostra azienda, il vostro modo di pensare, la vostra compattezza familiare, il vostro equilibrio psichico. Abbiamo già i primi ascoltatori. Gianluca, buongiorno. Pronto? Eccomi. Ciao Gianluca, buongiorno. Ciao Gianluca, buongiorno. Anch'io sono Gianluca. Anche io sono Gianluca. Niente, il problema, esiste una tecnica che si chiama buzz marketing, specialmente negli Stati Uniti, che è una tecnica che prevede di fare regali, in qualche modo remunerare personaggi. Da noi si chiamano marchette, più o meno la stessa cosa. Esattamente, sì, il classico tassinaro che comincia a parlare di un prodotto al cliente, oppure il personaggio della palestra, quindi esiste una tecnica già collaudata. Ma sì, le penne che improvvisamente c'hanno i giornalisti quando conducono il telegiornale, sì, i giubbottini molto belli con l'etichetta bene in vista che hanno quando fanno gli stand up, le borsette. Quella diciamo è un altro tipo di pubblicità, è veramente la chiacchiera, perché poi qualunque tipo di business alla fine passa per la bocca dell'uomo. Ma tu come mai lo sai, è il tuo mestiere questo? Io mi occupo di marketing, esattamente. Ecco, come tu convinci, arrivi al tassista, cioè al destinatario finale della marchetta? Mentre nella politica e in situazioni differenti, in quella che in gergo si chiama la redemption, ossia vedere qual è il risultato di un'azione pubblicitaria di questo tipo, lo vedi sul giornale, perché poi dopo se qualcuno va alla gogna, basta che una notizia sia verosimile, non vera, verosimile. Il problema nel business è sempre capire quali sono i personaggi chiave. Allora, se parliamo di abbigliamento, può essere il capetto di un gruppo di ragazzini, facciamo, allora lui viene avvicinato. Il problema vero nel business è capire questo, a seconda del mercato. Ci sono dei mercati dove è più semplice trovare questi che sono gli opinion leader, o mercati dove è più difficile, è evidente questo. Però comunque è una tecnica assolutamente sviluppatissima, specialmente appunto nel mondo della moda, che però la problematica vera è capire la redemption. Nella politica tu oggi racconti una cosa verosimile, non vera, perché tra verosimile e vero non esiste differenza. Ma diciamo la verità, che oggi il vero e l'accertato supera di gran lunga ogni ipotesi, ogni verosimiglianza, quindi non abbiamo nemmeno che l'imbarazzo della scelta, capito? No, esatto, non ce n'è, basta che una cosa la si dica, cioè, adesso senza entrare... No, dettagli, però... te lo dico con tranquillità, perché è notizia ormai nota, le liste dei politici implicati nella questione trans sono girate per tutte le redazioni, sono rimpallate con le crocette, le aggiunte, via dicendo. Io immagino i sudori di fronte che saranno circolati e probabilmente questa mattina chissà quanti terranno un sospiro di sollievo. Marianna Aprile. Sì, eccoci. No, la lista vera, presunta o sussurrata c'era e velocemente si è dissolta, ma io vorrei, a proposito di quello che diceva l'ascoltatore, raccontarti un piccolo esperimento sociale che nel nostro piccolo abbiamo fatto anni fa con dei colleghi del service in cui ho iniziato a fare questo lavoro. Noi abbiamo messo in giro una voce che riguardava un noto conduttore televisivo di cui abbiamo raccontato una cosa ignobile, una cosa... La cosa si può sapere? Palesemente lo accusavamo di coprofagia. Ma è terrificante. Assolutamente, ma era volutamente parossistica la cosa. E poi abbiamo contato i giorni che questa notizia ha impiegato per tornare a noi come una soffiata assolutamente certa. Meno di una settimana, ma da fonti che si erano nel frattempo moltiplicate e diversificate. Cioè, in rete esiste la stessa accusa legata a un noto cantante. Cioè, se uno vuole sputtanare, la maniera è semplicissima. Però era un piccolo esperimento sociale che ci eravamo imposti di fare sulla velocità con cui si diffondono le notizie. Ed era stato veramente, come dire, illuminante. Abbiamo al telefono Cristina Cenci, che è antropologa esperta in social media. È stato già, Cristina, buongiorno innanzitutto. Sì, buongiorno. È stato già annunciato da un nostro ascoltatore un esempio di marketing basato sull'individuazione di alcuni capobranco capaci poi di diffondere la notizia. Vediamo di saperne qualcosa di più. Pronto? Pronto, sì. Ecco. Scusate, sono in spostamento, quindi... Allora, sì, no, io appunto mi occupo di passaparola e aziende, cioè lavoro per le aziende in modo tale che possano usare il passaparola nelle loro strategie di comunicazione. Devo dire che è un lavoro piuttosto difficile, perché c'è l'idea che il passaparola sia un altro strumento di marketing o di advertising, quindi si basa tutto su ho un'idea, ho un qualcosa di virale, individuo il capobranco e ne parla. E invece è molto diversa la cosa, perché in realtà, fatemelo dire da un punto di vista antropologico, il passaparola funziona come rapporto tra aziende e navigatori, consumatori, solo in una logica di dono e controdono. Che cosa significa? L'esempio che faceva Marianna Aprile, giornalista Novella 2000, che hanno provato da un'agenzia a vedere, mettiamo in giro un'accusa infamante su un noto personaggio, vediamo quanto tempo ci mette a tornare, dopo una settimana l'infame Fandonia è tornata indietro, e non era un dono, in realtà è un dono, una polpetta avvelenata in questo caso. Esatto, esatto. Quindi diciamo il primo problema è che le aziende devono cambiare proprio la loro cultura interna di comunicazione, che in questo momento è dominata dalle logiche dell'advertising, cioè metto qualcosa che ha il potere di diffondersi perché è creativo. Io sono... Che è una parola che ormai assomiglia alla bestemmia, diciamo, chi dice creativo ormai appartiene a una generazione in via d'estinzione. Esatto, per me non c'è creatività, non è la parola chiave, non è creatività, ma è dono e fiducia. Cioè io azienda sono disposto a offrirti, per esempio, in anteprima. Oddio, che io sono molto scettico che qualcuno oggi regali qualcosa per niente, però io confido in quello che lei dice. No, infatti io parlo di dono e controdono, nel senso che io azienda sono disposta a offrirti in anteprima, ad esempio, un prodotto o servizio da testare, ma sono disponibile poi ad accettare il feedback del consumatore, a introdurlo nel mio prodotto o servizio, e a quel punto il controdono che ho in cambio dal consumatore è che il consumatore parlerà di quel prodotto o servizio perché nasce da una relazione. Beh, il farsi profilare già è un controdono. Ma infatti se il passaparola si aggancia a qualcosa che non è proprio l'opposto della molestia statistica, cioè io non è il sondaggio in cui ti chiedo come vorresti il prodotto, è ti coinvolgo, cioè tu potrai parlare bene di quel prodotto se io ti coinvolgo effettivamente nel momento in cui io lo progetto, ascolto il tuo feedback. Ma l'azienda non ha il rischio che qualcuno magari quel prodotto non l'apprezzi e dica guarda, a me fa schifo? Allora certo, assolutamente è possibile che si sviluppi un passaparola negativo, e questo è qualcosa che deve essere messo in conto. Infatti io metto sempre le aziende, le allerto, perché dico l'unico passaparola efficace è il passaparola spontaneo. Perché il passaparola sia positivo non è tanto la creatività quanto, secondo me, la fiducia che tu riesci a costruire con il gruppo che dovrebbe parlare bene. Sentiamo Aldo da Udine cosa ne dice. Aldo, buongiorno. Sì, buongiorno. È d'accordo tanto... che lo sputtanamento funziona se è divertente, se no non funziona. Ma guardi, che lo sputtanamento funzioni se è divertente, non sono tanto d'accordo. Io avevo chiamato per dire la mia riguardo alle posizioni che aveva avuto la giornalista qualche minuto fa, quando asseriva che la vita privata dei parlamentari deve rimanere privata. Io non sono d'accordo, ecco, su questa cosa. Non sono d'accordo per il semplice fatto che queste persone decidono quelle che sono le diciamo le linee di indirizzo della nostra vita attraverso le leggi che fanno. E sinceramente di vedere delle persone che sbandierano al Family Day per la famiglia o non riescono, non vogliono approvare le leggi contro l'omofobia, ma che poi però si divertono nella propria vita con queste trasgressioni, vanno punite. Non è che vanno puniti, devono in un certo modo, secondo me, rendere conto o comunque essere coerenti tra quello che fanno in Parlamento e quella che è la loro vita, perché dal momento che io mi permetto di educare delle persone, perché quando si fanno le diciamo leggi, sarebbe meglio che nessuno interferisca nemmeno con le leggi o con delle norme etiche nei comportamenti privati e intimi delle persone, allora sarebbe tutto più semplice. Marianna Aprile, come risponde l'ascoltatore? Intanto volevo chiarire con Aldo che io non sostenevo l'intoccabilità del privato dei politici, sostenevo soltanto che in questa inchiesta è giusto che non si facciano nomi di altri se non sono coinvolti nei reati su cui si indaga, era solo concussione, questo, tentativi di ricatto eccetera, per il resto sono assolutamente d'accordo, cioè se ne è discusso tanto alla luce delle cene di Palazzo Grazioli, delle feste di Villa Certosa, il privato di un politico è assolutamente pubblico, lo ha riconosciuto la stessa figlia del premier Barbara e ne sono convinta anch'io, insomma chi ci governa e chi decide in base a quali principi dobbiamo comportarci per essere nel giusto e nella legge deve essere il primo a dare il buon esempio, sono assolutamente d'accordo, non si può fare una legge sulla prostituzione e ospitare prostitute a casa propria. Siamo partiti da un triste episodio di cronaca, la trans Brenda trovata bruciata nel suo appartamento via Due Ponti a Roma, e siamo arrivati all'uso strategico, intelligente della chiacchiera, del testimonial, della maldicenza avvelenata ma anche edulcorata riguardo al personaggio noto, al testimonial, che diventa una sorta di stampella organica per abiti. Marianna Aprile, giornalista di Novella 2000, facciamo una riflessione adesso durante la pausa. Sì, che pensavo al gossip non politico che ha regnato, l'unico gossip non politico che ha regnato in questo 2009, cioè la grande presunta storia d'amore tra George Clooney e Elisabetta Canalis, con una sorta anche di additivo di presunta invece preferenza per frequentazioni gaie di Clooney. Improvvisamente, appena lui si è fidanzato con la Canalis, tutti i suoi migliori amici hanno cominciato a dire in giro che lui fosse gay, che insomma visto la compagnia di guasconi che sono sono unanimemente riconosciuti come tali, ci sta che potesse essere una butade, eccetera. Però diciamo che le voci si sono fatte molto insistenti negli ultimi mesi e provengono anche da fonti assolutamente insospettabili. Detto questo, a proposito di piazzamento del prodotto, testimonial volontari o involontari di marchi o di stili, perché poi al di là del singolo brand è proprio le celebrity sanno in qualche modo la tendenza a veicolare un look. Ecco, perché Clooney e la Canalis si vedono sempre in motocicletta, ad esempio. Si vedono sempre in motocicletta, ma si vedono anche sempre con dei splendidi giubbottini che abbiamo visto più volte anche al cinema. Quelli di Bastardi senza gloria, per esempio, e sono per carità, io se avessi uno dei miei più cari amici che produce dei bei vestiti e lui me li regalasse, li indosserei. Detto questo, magari non indosserei sempre quelli, diciamo, avrei anche altri amici che producono altre cose, probabilmente, o li comprerei ogni tanto. Ecco, ma tutto questo giro naturalmente è un giro anche economico, non credo che Clooney lo faccia per sport di mettersi i giubbotti sempre uguali e di andare in giro con una ragazza vestita con le stesse cose. Immagino di sì, perché pensare male è il mio mestiere, in genere ci si azzecca, come diceva qualcuno, però insomma. Enrico Pozzi, professor Enrico Pozzi, docente di psicologia sociale all'Università di Roma, rispetto alla nostra chiacchiera, al rumor su rumor, ha un fondamento scientifico quello che stiamo dicendo, secondo lei? Ha assolutamente un fondamento scientifico, nel senso che è possibile tentare di direzionare la comunicazione sociale secondo vie preordinate, ma devo anche dirle che il sociale è ironico, il sociale è contraddittorio, uno parte, fa partire una chiacchiera in un modo e poi arriva in un altro. C'è un esperimento celebre in psicologia, uno racconta, mette sette persone in fila, dice alla prima, racconta alla prima un evento, tipo Maria è una brava signora, e alla settima regolarmente Maria è una puttana. Quindi non esiste un algoritmo per prevedere le imprevedibili derive del sociale? No, no, perché saremmo onnipotenti e divini ed è qualcosa a cui abbiamo rinunciato. Facciamo cose più semplici, tentiamo semplicemente di controllare, seguire, monitorare, accompagnare e non porre regole di contenuti se siamo dei comunicatori seri. In altri termini, se un'azienda o un'istituzione o un'organizzazione ci chiede qualcosa, questo qualcosa non diventa il regaletto che facciamo a qualcuno perché dica bene, ma la cosa che diamo a qualcuno perché dica quello che pensa, perché in questo modo, in ogni caso, la comunicazione sarà potente ed efficace. Se la persona parla per un regaletto non sarà né potente né efficace, sarà niente, e iniziamo semplicemente a diffidare ancora un po' di più di quanto non facciamo attualmente. Cristina Cenci, antropologa, come gestisce con i suoi strumenti tecnici da antropologa le possibili derive rispetto a una gestione positiva dell'azienda, per l'azienda del rumor? Allora, come dicevo prima, l'aspetto principale è la cultura aziendale, cioè la disponibilità dell'azienda ad aprire questo canale, e infatti noi spesso rifiutiamo dei progetti di passaparola proprio perché rischiano di esporre l'azienda a delle negatività, ma non necessariamente perché il prodotto o servizio che offrono sia scadente, ma perché non c'è la disponibilità a far entrare il consumatore, poi appunto regala il proprio passaparola in questo processo di relazione e di costruzione del prodotto o servizio. L'aspetto primario su cui lavoriamo è la cultura aziendale, prima di tutto. Sentiamo Manfredo da Firenze. Manfredo, buongiorno. Ciao Gianluca, buongiorno. Ma sto pensando che alla fine tutto questo discorso dei rumors mi dà l'idea dell'utilizzo a livello di marketing delle leggende metropolitane. Cioè il fatto della Procter è noto. Era stata messa la voce in giro che nel marchio aveva una sorta di cifra 666, che era un'azienda che si basava su rituali satanici. Ci hanno messo anni per riuscire a allontanare questo anatema. Sì, ma è proprio crudele l'utilizzo di metodi, cioè sempre più scientifici e come si dice, potrebbe quasi dire esoterici, per condizionare la mente delle persone. Mi ricordo te un po' dietro parlavi di, scusami, passano delle ambulanze. Peggio chi sta dentro che noi che la sentiamo. Di marketing neuronale addirittura. Certo, sì. Cioè qua si sta arrivando veramente a dei livelli talmente eccelsi che... Diciamo che anche nel mondo dello spettacolo in maniera molto più rozza, ma come in tutte le società basta dire che una persona porta sfiga, che questa viene nel giro di pochissimo tempo uccisa completamente. Sentiamo Tina da Milano. Pronto? Sì. Buongiorno. Senta, io non so, forse vado un po' fuori tema, però a proposito di chiacchiere, io credo che voi giornalisti tutti, quelli che fanno gossip più o meno, siete bravissimi a incanalare le idee, tutto quanto, il pensiero unico. Allora, e mi riferisco in questo caso all'insediamento del Presidente Obama e della di lui moglie. Ecco, avete fatto diventare un'icona di stile. Quando dite avete, a chi si riferisce? Scusi, io... Come? Non ho... Quando dici avete, chi? No, nel senso che siete bravissimi. Ma bravissimi, siete chi? Nel senso che chi siete? Tutto un tratto. No, allora, ma scusi, a chi si rivolge? Della donna era... Vabbè, signora, diciamo... sapere a chi si rivolge lei? Quando dice siete, avete, chi? Ai giornalisti in generale. Ah, noi? Alla stampa, soprattutto parlo di quella femminile in questo caso. È un mondo variegato comunque. Lei non c'entra. Sì. Ecco, ma... Marianna Aprile forse. Sì, io voglio dire... Hai fatto leggere Obama, hai capito? No, l'ho beatificato. Ah, l'hai beatificato. Sì, prego signora. Sì. Ecco, no, volevo dire che siete bravissimi, nel senso che i paragoni con l'altra presidentessa, i paragoni con Jackie Kennedy, con la Carla Bruni, per carità, a me la Carla Bruni sta antipaticissima. Beh, vada al punto, signore. Però onestamente voglio dire, l'avete fatta passare come un'icona di stile, di bellezza, caspita, fisicamente sembra una scaricatrice di porto, si veste in una maniera oscena, eppure tutti che sbavano per la Michelle Obama, mi spiegate come mai? A parte che i gusti maschili e femminili estetici sono variabili, ci sono persone che sbavano per donne non sempre dotate di fianchi contenuti e di punto vita costretto. Trovo impietoso, adesso non perché la moglie del presidente degli Stati Uniti si difende da solo, la sua lettura. Io sbavo per chi mi pare, sbavo per chi mi fa sbavare, sbavo chi dà sollecitazione ai miei sensi. Non ho modo di saggiare la sua possibilità di farmi sbavare perché sento soltanto la voce, ma mi sembra che siamo lievemente fuori tema. Siamo arrivati alla conclusione di questa importante e faticosa trasmissione con questa signora che ha voluto dire la sua e abbiamo dato modo di dirlo, ma evidentemente non aveva ben capito qual era l'argomento su cui ci stiamo affannando da circa un'ora. Ringrazio Marianna Aprile di Novella 2000, ringrazio Enrico Pozzi e Cristina Cenci che oggi inaugureranno la loro organizzazione di esperti di diffusione e gestione della chiacchiera e del rumor come strumento di marketing, e ci sentiamo lunedì. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Radio 24. La passione si sente.